Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Lunghe ore di viaggio in situazioni climatiche spesso difficili senza la possibilità di un riposo regolare. È in queste condizioni che gli autotrasportatori devono mantenere alta la propria attenzione sulla strada e sul mezzo. Il lavoro dell'autotrasportatore è un'attività complessa, caratterizzata da molteplici impegni che vanno ben oltre la guida, dal rispetto delle numerose regole nazionali e internazionali tipiche del settore, alla cura del veicolo, anche durante la sosta per evitare furti o rapine. Tutto ciò rappresenta un'inevitabile causa di stress, spesso sottovalutato. Ma è possibile intervenire per ridurre rischi che possono riflettersi sulla sicurezza anche delle nostre strade? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E in realtà oggi ci occuperemo di un argomento che riguarda un po' tutti, autotrasportatori ma anche automobilisti. Questo perché stare molte ore sulla strada è fonte di stress fisico ma anche mentale. Lo sanno bene appunto gli operatori professionali del trasporto, ma anche quanti, e quindi parliamo di automobilisti, si trovano spesso a trascorrere molte ore nel traffico. Degli effetti psicologici di questo stress da strada, ma anche dei suoi possibili rischi, parliamo oggi con la dottoressa Nicole Scala, psicoterapeuta e psicologa dell'emergenza. Buon pomeriggio, dottoressa Scala, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, cominciamo proprio con questa qualifica, psicologa dell'emergenza. In pratica, di che cosa vi occupate? Allora, come psicologi dell'emergenza ci occupiamo, come dice la parola stessa, di tutti i settori in cui ci sia una possibilità di emergenza, partendo da quella che è però la prevenzione, quindi non interveniamo soltanto durante l'emergenza, ma cominciamo il nostro lavoro prima, quindi lavorando con tutte le persone che magari lavorano in settori particolari, come ad esempio gli operatori del soccorso, ma anche i volontari, le forze di polizia e anche gli utenti della strada oppure gli autotrasportatori, per, insomma, tutte quelle categorie di persone che possono incontrare nella loro vita delle particolari situazioni di emergenza legate alla propria professionalità. Ecco, veniamo proprio agli utenti della strada. Quali sono le principali cause di stress emotivo, ma anche fisico? Le principali cause di stress emotivo e fisico per chi è su strada, come possiamo anche intuire dalla nostra esperienza quotidiana, sono sicuramente un'attenzione sostenuta e un lungo impegno magari alla guida, soprattutto per chi guida in città e nel traffico o per chi quotidianamente magari si sposta per andare al lavoro per lunghe ore di viaggio, e poi quelle che sono sicuramente tutti i fattori legati allo stare, all'essere sempre in contatto con il resto del mondo, e quindi entriamo in tutto il problema legato all'uso della tecnologia al volante. In pratica, nell'ultimo periodo non riusciamo a rimanere distanti dal nostro ambiente circostante, dalla nostra famiglia, dai nostri amici, tanto da sentire la necessità di dover necessariamente anche alla guida utilizzare magari il cellulare, e anche questo è un fattore di stress, oltre che ad essere un fattore, come ben sappiamo tutti, di rischio problema proprio per la sicurezza, quanto riguarda la guida. Tant'è vero che le ultime statistiche indicano proprio nell'uso del cellulare ormai la, come dire, fonte principale di incidentalità sulle nostre strade. Ecco, quindi quali sono gli eventi che noi possiamo considerare critici quando siamo alla guida di un veicolo, siano essi automobili, motocicli o veicoli pesanti? Allora, gli eventi che possiamo sicuramente considerare critici sono tutti quelli legati ad esempio a quelle che, nel caso degli autotrasportatori, a tutte quelle che sono le condizioni legate a magari agli imprevisti della strada, come ad esempio altri autotrasportatori o automobilisti che guidano in maniera non corretta, non rispettando il codice della strada, oppure quelli che possono essere condizioni legate al furto del proprio veicolo. Questo ovviamente in particolare legato, mi riferisco agli autotrasportatori, a determinate condizioni di autotrasportatori che magari sanno bene che portano un carico particolarmente importante e con un determinato valore, e quindi sanno di poter incorrere in quelli che sono furti o addirittura rapine del loro mezzo e quant'altro. E quindi questo per quanto riguarda, diciamo, l'autotrasportatore. Ecco, ma a questo punto, per quanto sia abbastanza difficile difficile e complicato. Com'è possibile prevenire questo stress sul lavoro, che è uno stress legato appunto a dei fattori esterni, quali possono essere i furti e le rapine, ma anche a un traffico intenso, per esempio? Allora, la prevenzione è, diciamo, parte sempre sia per quanto riguarda gli autotrasportatori, così come la prevenzione per qualsiasi altro tipo di stress lavoro correlato o di stress in generale. Il primo passo è conoscere lo stress e sapere che tutti, ma proprio tutti, possiamo avere condizioni di stress, a prescindere dal lavoro che facciamo o da quello che facciamo quotidianamente. Tutti noi possiamo avere fonti di stress e il primo passo per prevenire è proprio conoscerlo, sapere che tutti siamo vulnerabili allo stress. Conoscere, oltre a sapere che siamo tutti vulnerabili allo stress, ma anche sapere che cos'è lo stress, che cosa può portare, quali sono le sue conseguenze, ma anche quali sono soprattutto i suoi campanelli d'allarme. E laddove ci rendiamo conto che ci sono dei campanelli di allarme, di mettere in atto delle azioni di prevenzione, appunto, che possono renderci meno stressati. Ecco. Quali sono questi campanelli di allarme? Ecco, che credo che sia un'informazione importante per quanti soprattutto sono alla guida in questo momento. Per quanto in generale i campanelli di allarme dello stress possono essere, ad esempio, in particolari condizioni in cui si ci trova agitati, quando non si riesce a rispondere a tutte quelle che sono le esigenze della nostra vita familiare e lavorativa. E poi ci sono tutti quelli che sono, ad esempio, particolari problematiche legate, non necessariamente problematiche, anche condizioni legate magari a una difficoltà nell'addormentarsi, nel dormire serenamente, oppure di arrabbiarsi facilmente, sentirsi agitati, ansiosi, oppure avere anche delle difficoltà poi legate all'alimentazione. Ad esempio, c'è chi è stressato che tende a mangiare di più e chi tende a mangiare di meno, con tutte quelle che sono poi le difficoltà nell'uno e nell'altro senso. C'è un po' una variabile abbastanza ampia di quelli che sono i fattori di i campanelli di allarme dello stress. L'importante è saperli riconoscere. Nel caso degli autotrasportatori, per esempio, un campanello d'allarme può essere anche la noia, la stanchezza. Percepire talvolta, al di là della stanchezza, proprio una noia che porta anche al sonno. Ecco, tutta una serie di fattori che ci possono indicare che probabilmente in quel periodo siamo particolarmente stressati e quindi magari è importante fermarsi un attimo. Fermarsi anche, ecco, proprio fermarsi un attimo fisicamente per strada per qualche istante per fare due passi magari sull'autogrill e ripartire. Ecco, per gli autotrasportatori questo, oltre che una scelta, è un obbligo, perché hanno dei tempi di guida e di riposo, quindi devono fermarsi obbligatoriamente. Per legge. Un automobilista però a volte non lo fa per vari motivi, tra cui quello della fretta, della mancanza di tempo. Ecco, che cosa potrebbe succedere in quel caso? Allora, laddove lo stress è tale, la stanchezza è tale, e sappiamo tutti bene che ovviamente non fermarsi, non ritrovare il proprio benessere psicofisico conduce sicuramente a conseguenze abbastanza allarmanti, come sono gli incidenti stradali, e quindi ma non soltanto gli incidenti stradali, questi diciamo che sono alla guida, ma tutta un'altra serie di conseguenze che possono comunque, ecco, interferire su quella che è la nostra vita quotidiana, lavorativa e familiare, anche raggiungendo degli obiettivi inferiori rispetto a quelli che sono i nostri target. Ecco, ma c'è una soluzione a queste problematiche? C'è un rimedio che può in qualche modo darci sollievo? A queste problematiche, come parlavamo anche prima, partire dalla prevenzione e riconoscere lo stress e cominciare ad agire per gestirlo. Una delle cose abbastanza semplici è condividerlo con gli altri, magari con i propri colleghi, con i propri familiari, cioè imparare che noi siamo stressati e che possiamo anche dirlo all'altro, quindi condividerlo e cercare di capire qual è la strategia migliore che ci fa bene per far stare meglio e per sentirci meno stressati, come può essere, ad esempio, ecco, diciamo, prima fermarsi 5 minuti, ma anche respirare profondamente, fare degli esercizi di rilassamento, dedicarsi ad un hobby in particolare, prendersi 5 minuti per se stessi, insomma, delle piccole anche azioni quotidiane che possono aiutarci a stare meglio, a ritrovare il nostro benessere e quindi ad essere meno stressati. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.